rapidissimi ad assumere la modalità Mahasi questa volta. For fear of disturbing the others. Semplicemente per paura di disturbare gli altri. So this evening we're going to do just a little ceremony which I will explain. E stasera faremo semplicemente una piccola cerimonia che ora vi spiegherò. And then I have the recording of what I did with the group on Friday. E poi ho la registrazione di quello che abbiamo fatto col gruppo che è arrivato prima di voi lo scorso venerdì. So there's a standing meditation. Quindi nella registrazione adesso sono descritte le istruzioni per la meditazione in piedi. This is important to understand 5 of the 7 factors of enlightenment. Ed è molto importante comprendere 5 dei 7 fattori dell'illuminazione. And then during the sitting, it's a guided sitting, introducing or reinforcing what you already know. E poi ci sono le istruzioni per la meditazione seduta e mentre si è seduti rinforziamo quello che sappiamo già. To make it as clear as possible what the process of vipassana is. E con l'intenzione di rendere il più chiaro possibile l'intero processo di vipassana. Then it ends with a little metta. Poi sentirete nella registrazione che abbiamo terminato con un po' di metta. This is practicing loving kindness, goodwill. Cioè, Gianni is saying that the metta is not included. Ah, oh, disastro. Quindi metta vuol dire gentilezza amorevole, ma non c'è nella registrazione. So, when it's finished, has everybody done some metta practice? E allora la domanda è, avete già tutti fatto qualche volta un po' di pratica di metta? Sì, no, so. Only one size enough. No? Okay, very quickly. Think of some beautiful things you would like for others to have. Quindi molto rapidamente, per immaginare cos'è metta, portate nella vostra mente qualcosa di molto bello che vorreste offrire agli altri. Safe from danger. Per esempio, essere al sicuro dai pericoli. Good health. La buona salute. Happiness. Felicità. And a life which is basically contented. E una vita che sostanzialmente è appagata. Something like that. Qualcosa del genere. And you can bring first of all your benefactors to mind, those who've helped you in your life. E questi doni potete rivolgerli innanzitutto ai benefattori, cioè le persone che vi hanno fatto del bene nella vita. And then your near and dear. E poi lo potete rivolgere alle persone che vi sono vicine, che sono care per voi. Friends, people you know. E poi a tutti i vostri amici o altre persone che conoscete. And then you can offer some to yourself, don't forget, huh? E poi potete rivolgere queste stesse cose a voi stessi, non dimenticatevene. And then to everybody here, you see? E poi potete offrirlo a tutte le persone che sono qui con voi. Then you can go back to where you live, to your area, to your vicini, your neighbors. E poi potete inviarle nel luogo dove abitate, coinvolgendo tutti i vostri vicini, tutta l'area del vicinato. To all the people in our country. E poi a tutte le persone che abitano nella vostra nazione. All the peoples of Europe, you see, going out. Tutti i popoli e le persone dell'Europa. All people on earth. E tutta la gente della terra. And to all beings in all directions. E infine a tutti gli esseri in tutte le direzioni. If you don't remember that, no problem. E se non ve lo ricordate, non fa nulla. Just send out a bit of love. Sorry, because Gianni was telling us something. I can go and take another recording. You can if you wish. Yeah, yeah. Si stanno accordando per avere un'altra registrazione di metta. And then you can go to bed. E poi alla fine andiamo tutti a dormire. So, let me explain this little ceremony we shall do. Quindi adesso voglio spiegarvi un po' questa piccola cerimonia che faremo. If you look at the sila. Se guardate al paragrafo dove c'è scritto sila. Hello, sila. So the first are usual precepts for an ethical life. I primi sono i precetti soliti rispetto ai quali ci impegniamo per condurre una vita etica. The first five, eh? I primi cinque, quindi. Yeah. We can feel safe, we're not going to kill each other over the qua week. Possiamo tutti stare al sicuro, perché l'impegno che ci prendiamo è di non ammazzare nessuno. And so on, eh? E così via. Now, then it says not to eat more than necessary. Poi se passate al sesto punto, dove c'è scritto mi impegno a non mangiare più del necessario. Ah, so remember, we're not going to do very much. Allora ricordatevi di una cosa, che in questi giorni non faremo tanto. Slow walking. Camineremo sitting, lentamente. Sitting still. Resteremo seduti immobili. We're not going to think on purpose. E non faremo apposta, non penseremo intenzionalmente. We're not going to allow our emotions to get the better of us. E non lasceremo nemmeno che le emozioni prendano il dominio della scena. So you need about half what you normally eat. Quindi sostanzialmente c'è bisogno di circa la metà di quello che mangiamo di solito. Vero. Then there's not to sleep too much. Poi il punto successivo è l'impegno a non dormire più del necessario. Now, most people come with some imbalance in their sleep. Allora, noi sappiamo che la maggioranza di noi arriva qui con degli squilibri nel ciclo di veglia e di sonno. Either they're sleeping too little, not good sleep, or they're sleeping too much. Ci sono persone che dormono troppo poco o non dormono bene, e altre che dormono troppo. So it takes maybe 3 days for this to sort itself out. E di solito ci vogliono circa 3 giorni prima che si sistemi un po' questo nuovo ritmo. So if you fall asleep in the first and second day, that's, you know, we just try to work with it. E se ti capiterà di addormentarti durante la prima giornata o la seconda, questo diventa semplicemente un modo per lavorarci sopra. After 3 days it is sloth and torpor. E dopo 3 giorni si trasforma, lo puoi chiamare come torpore, ottundimento. And then you must make a firm determination never to be annihilated. E a quel punto devi proprio prendere la determinazione molto ferma di non farti annientare da questo, di non andarci dentro. Annihilated. Sì, annientare. Ecco. Not to indulge in divertimenti. Poi c'è scritto, vedete, di non indulgere nei divertimenti. Our purpose is to close down the thinking mind, the imagining mind. Perché qua il nostro scopo è quello di chiudere la mente pensante e immaginante. You can't do it by an act of will. E questa cosa non la possiamo fare con un atto di volontà. You do it by simply not indulging it. Lo possiamo fare semplicemente non indulgendo nelle cose. So as soon as you find yourself thinking, you come off it. E quindi non appena ti accorgi che stai pensando, ne esci fuori. We don't have to worry about how we look. Poi qua ovviamente non ci interessa qual è il nostro aspetto fisico, la nostra apparenza. And finally to honor the noble silence. E il punto finale è quello di onorare il nobile silenzio. So this means even not to look at somebody. E con un nobile silenzio intendiamo anche il non guardare direttamente qualcun altro. Because when you look at somebody you beckon a response. Perché quando guardi qualcuno è come se tu chiamassi da questa persona una risposta. So our purpose is to go inward, we're studying ourselves. Perché qua il nostro scopo è quello di andare dentro di noi e studiare cosa c'è dentro di noi. So the more we can let go of the outer world, the more we'll begin to understand the inner world. E più riusciamo a lasciare andare quello a che fare col mondo esterno, più saremo disponibili e pronti a guardare cosa c'è nel mondo interiore. Sì. So then the Vipassana Gatha, the Vipassana verses. Poi ci sono i versi di Vipassana Gatha. This tells us what we're actually investigating. Che ci descrivono quello che in realtà investighiamo. We're investigating the process of impermanence. Quello che investigheremo è il processo dell'impermanenza. The process of desire and unsatisfactoriness. Il processo del desiderare e della sua natura insoddisfacente. And we're investigating the sense of self. E poi investighiamo il senso del sé. Eh? So remember, the Buddha didn't say there was no self. E ricordatevi che il Buddha non ha mai detto che il sé non esiste. He just said it wasn't real. Lui ha semplicemente detto che il sé non è reale. Ah, it arises and passes away. Perché sorge e poi se ne va. Mm. Where's the self when you're asleep? Dov'è il sé mentre dormi? Hidden in the pillow. È nascosto nel cuscino. Then we begin be bowing. E poi, what do we begin? Oh, sorry. At the end there are some phrases from the Buddha. Poi vedete alla fine del foglio ci sono le ultime parole del Buddha, una frase del Buddha. So we begin by bowing. E quindi iniziamo inchinandoci. You needn't do any of this, by the way. E ovviamente di tutte queste cose che vi sto dicendo non siete obbligati a fare nulla. So bowing is just a very body language for surrender. In realtà l'inchinarci è davvero un linguaggio che usa il corpo per arrendersi. Because you don't want doubt to come up, you want to just give yourself to the teaching. Perché non vuoi che emerga continuamente il dubbio, vuoi arrenderti all'insegnamento. After you can doubt. Poi puoi dubitare, dopo. Dopo. And we bow to the Buddha, Dharma, Sangha. Quindi ci inchiniamo al Buddha, al Dharma e al Sangha. Then Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddhasa is honoring the teacher. E poi quando recitiamo quello che ho appena detto, Namo Tassa eccetera, e noi rendiamo omaggio all'insegnante. You pronounce the Pali with open vowels like Italian. E quando lo reciteremo in Pali, ricordatevi che le vocali sono aperte come nell'italiano. So, Buddham Saranam Gacchami. Poi appunto i rifugi, dove c'è Buddham Saranam Gacchami, eccetera. Sì, the Buddha is the teacher, the historical personage. Quindi con Buddha noi intendiamo sia l'insegnante, cioè il personaggio storico. He is an exemplar. Ma anche colui che dà l'esempio. Because he actually practiced what he's teaching us. Perché lui pratica quello che insegna, lo mette in pratica. And he's also an archetype. Ed è anche un archetipo il Buddha. Because you'll see all the spiritual traditions, the mystical spiritual traditions, it's all about forming a new relationship to the world. Perché in tutte le tradizioni spirituali mistiche la questione è formare una nuova relazione con il mondo. We call it renunciation. Che chiamiamo qui rinuncia. We can explain this later. E poi la rinuncia ve la spiego più avanti. But spiritually you're taking refuge in the Buddha within you. Ma a livello spirituale tu prendi rifugio nel Buddha che hai dentro di te. Something in you is seeking liberation from suffering. Qualcosa dentro di te sta cercando la liberazione dalla sofferenza. Or else you wouldn't be here, eh? Altrimenti non sareste venuti qui. Ecco. The Dhamma is the teaching, both the intellectual understanding and the practice. E con Dhamma intendiamo l'insegnamento, nel senso che è compresa la comprensione intellettuale e anche la pratica. And the Sangha is traditionally those people who have experienced Nibbana. E con Sangha intendiamo nella tradizione coloro che hanno avuto un'esperienza del Nibbana. So this is both lay people and monastics. E questo riguarda sia i laici che i monaci. But for our purpose it's each other. Ma per il nostro scopo del ritiro siamo noi qui, siamo tutti noi. So we are supporting each other. See? Quindi ci sosteneremo tra di noi. It's much easier to suffer when we know other people are suffering. È molto più semplice soffrire quando sappiamo che anche gli altri stanno soffrendo. Vero. Allora, cominciamo. So, don't be afraid. This doesn't make you a Buddhist. E mi raccomando, non preoccupatevi, perché recitare adesso non vi trasformerà in buddhisti. Ok, so join in. Quindi sì, voi vi unite a me. Yeah. Just join in as you wish. E vi unite nel modo in cui volete.